Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, bentornate e ben sintonizzate. Quella che state ascoltando è la nostra 148esima trasmissione. Oggi qui in studio sono da sola, sono Caterina, ma sono da sola semplicemente perché le altre compagne del gruppo stanno impegnatissime per le iniziative della venuta per Aisha qui a Roma, di cui abbondantemente è già stato detto. Dunque vi do subito una notizia molto importante per noi, che ripeteremo poi più volte nel corso della nostra trasmissione. Allora, fino a tutto il mese di dicembre e a partire dalla prossima settimana, la nostra trasmissione avrà una modificazione oraria. Inizierà cioè alle 20.30 anziché le ore 21. Per il resto poi rimane tutto uguale. Infatti vi ricordo che potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle 22. Però ricordatevi, solo per oggi, perché a partire dalla settimana prossima fino alle 21.30, oppure potete inviarci un sms al numero 338 41 46 682. Se volete contattarci al di fuori di questa fascia oraria, potete farlo chiamando il mercoledì sera a partire dalle ore 21 allo 06 68 64 201. Ci potete ascoltare anche tramite internet andando sui due siti, quello di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, oppure il nostro sito che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta e dovreste, almeno spero, riuscire a sentirci tramite internet anche da tutta Italia. Visto che il gruppo che qui rappresento, il CLR, è un gruppo degli organizzatori dell'evento Aisha qui a Roma, vi riparleremo chiaramente dell'iniziativa che stiamo preparando noi all'interno della Casa Internazionale della Donna e delle altre iniziative sparse un po' per tutta Roma. E soprattutto parleremo di quanto gli argomenti trattati nel suo filmato siano purtroppo ancora attuali e presenti anche da noi. Daremo infatti uno sguardo un po' in tutto il mondo per vedere che cosa succede alle donne. Non mancheranno poi i consueti appuntamenti per una serie di iniziative, anche queste sparse un po' in giro. Adesso ascoltiamoci subito un brano musicale. Visti gli argomenti di oggi, ci sembrava giusto ribadire il concetto che unite si vince e ci si dà forza reciproca. Per cui ascoltiamo la voce della cantante brasiliana Fortuna con il brano Dame Tu Fuerza. Allora, mi sono fatta trovare impreparata come al solito, un attimo soltanto. Allora, io chiaramente devo ripetervi ancora l'iniziativa No Rendere Visibile l'Invisibile, che è organizzata da L'Una e le Altre, gruppo di lavoro contro il razzismo, coordinamento lesbiche romane, centro femminista separatista, Casa Internazionale delle Donne, la libreria Zora, Queering Sapienza, la Mela di Eva e Donne in Genere e Differenza Donna. Allora, tutti insieme vi invitiamo agli incontri che si terranno a Roma dal 13 al 16 ottobre, nei quali sarà presente l'autrice Aisha Simmons, che presenterà il suo film documentario No e racconterà il suo intervento contro la violenza alle donne all'interno della comunità afroamericana. Allora, Aisha Simmons è una femminista, attivista, lesbica, afroamericana e fondatrice dell'Afro Let's Production, compagnia cinematografica indipendente Femcentric, nata con lo scopo di documentare attraverso la telecamera l'impatto che il razzismo, il classismo, il sessismo e l'omofobia hanno sulle vite delle ragazze e donne di colore e per rompere il silenzio attraverso le loro storie e le loro voci. Dunque, Aisha Simmons è stata pluripremiata come regista con i corti Silence Broken e My Father's House e attualmente risiede a Filadelfia, negli Stati Uniti, dove lavora come giornalista e freelance e poi chiaramente è una regista. Adesso qualche notizia sul film, anche se chiaramente sarà stato detto e ridetto, ma l'importanza che noi diamo a questo evento ci fa essere convinte che è importante ricordarlo, ripeterlo, è importante esserci, è importante partecipare. Allora, film documentario di 74 minuti è sullo stupro interrazziale nella comunità nera. Attraverso vignette narrative, testimonianze, interviste, immagini d'archivio, musica, danza, poesia, il film mostra le orribili manifestazioni dell'oppressione razziale, di genere e sessuale, ma anche la grande forza che le donne vittime di violenza riescono ad esprimere, diventando sopravvissute, educatrici, guaritrici e guerriere. La realizzazione del film No ha dato infatti la possibilità alle donne che vi hanno preso parte di creare all'interno della propria comunità, oltraggiata dal numero sempre più alto di stupri e di omicidi, uno spazio di confronto e di relazione. Il film No è premiato con l'Audre Lorde Legacy Award ed è il primo documentario del suo genere. Appartiene ad una lunga tradizione di protesta di donne nere scrittrici, attiviste, artiste, poete come ad esempio Zora Neale Hurston, Toni Morrison, Toni Kadee Bambara, Alice Walker, Audre Lorde e tante altre. E andiamo a vedere dove e quando. Allora, mercoledì 13 ottobre alle ore 16, le donne dei collettivi La Mela di Eva e Queering Sapienza organizzeranno la proiezione del film No ed un incontro con Aisha Simmons all'Università di Roma, La Sapienza, Facoltà di Lettere. Sì. Invece giovedì 14 alle ore 18 Differenza Donna organizza un incontro con le operatrici dei centri antiviolenza presso il centro di accoglienza per le donne in difficoltà Maree, via del Monte delle Capre 23. Invece venerdì 15 ottobre alle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne, il coordinamento Lesbiche Romane, Donne in Genere e L'Una e le Altre, gruppo di lavoro contro il razzismo, Zora Neale Hurston, la Casa Internazionale delle Donne, organizzano un grande evento dibattito con Aisha Simmons e con la proiezione del film No. Il tutto si terrà alla Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1, sala convegni al primo piano, e a seguire ci sarà la cena di finanziamento al Centro Femminista Separatista per sostenere il progetto di Aisha. Chiaramente questa iniziativa del 15 ottobre, essendo fatta alla Casa Internazionale delle Donne, è aperta alle sole donne. Il centro femminista di Separatista sta in via San Francesco di Sales 1B. Quindi l'incontro con Aisha e la proiezione del film e il dibattito si fa in via San Francesco di Sales 1A nella sala convegni al primo piano, mentre invece la cena di sottoscrizione per finanziare il progetto No di Aisha Simmons si fa al centro femminista separatista, ingresso riservato alle sole donne, in via San Francesco di Sales 1B. E per concludere questa 4 giorni di presenza di questa straordinaria donna, sabato 16 ottobre alle ore 19 il gruppo di lavoro contro il razzismo organizza una festa presso L'Una e le Altre che avrà ospite Aisha Simmons. L'Una e le Altre sta in Largo Cannella 17 a Spinaceto. E per ulteriori informazioni potete scrivere a contatti@clrbp.it oppure lunaelealtre@libero.it oppure info@casainternazionaledellodonne.org oppure ccidonne@tiscali.it. E a questo punto, dopo aver riletto per l'ennesima volta l'iniziativa che riguarda la venuta a Roma di Aisha Simmons, ci sembrava giusto prendere in prestito alcune parole di una cantante, Ochi Curiel, anche lei una combattente. E la canzone che manderemo adesso si intitola Mujer is Tiempo e alcune parole di questa canzone dicono: donna, sei nata oppressa, forse la tua coscienza ha dormito, il tuo ventre è stato violato, le tue ansie sono rimaste vuote. Lottare diminuisce il tuo pianto, senza di te ci sono momenti di vuoto. Donna, non arrenderti, è tempo che le tue giornate siano di esempio. Donna, ascolta la mia chiamata, per te la speranza è sbocciata. Oprimida, quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías, luchar fue tu verbo olvidado, mira. Perdidos, mujer, te has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado. vuelve y nace la vida. Gli appuntamenti. Allora, oltre ad Aisha Simmons qui a Roma, abbiamo una serie di appuntamenti che abbiamo scaricato dalla nostra email e che, di segnalazioni che ci sono arrivate, che quindi vi andiamo a leggere. Allora, biodanza, corso per sole donne a Brescia con Viviana Geron. Siamo un gruppo di donne di Brescia, amiche che vogliono realizzare un piccolo progetto. Incontrarsi, stare in relazione in modo espressivo, creativo e divertendosi. Abbiamo scelto di provare a farlo con biodanza. Ci daremo appuntamento una volta al mese per 9 incontri da ottobre a giugno 2005. Il gruppo di biodanza per sole donne è aperto ad altre partecipanti che si vogliono unire a noi in questa esperienza. Ci condurrà durante il percorso l'amica Viviana Geron. Allora, biodanza è un sistema che favorisce lo sviluppo umano tramite esperienze integranti indotte dalla musica e dalla danza. Essa si compone in un insieme di esercizi organizzati secondo un modello teorico destinati ad elevare il grado di salute, a migliorare la capacità di vincolo e di espressione effettiva e stimolare la creatività. Ogni partecipante è invitata a scoprire le proprie risposte vitali e a dirigersi con selettività verso forme di espressione e di azione che rinforzino il suo sviluppo e il suo equilibrio organico ed esistenziale. La proposta è rivolta a tutte le donne senza limiti d'età. Unico requisito è il desiderio di approfondire la conoscenza di sé e delle altre in un clima divertente, privo di critica e giudizio. (Sussurra) Allora, Viviana Geron è insegnante titolare di biodanza e tutor della Scuola per Conduttori di Milano. È specialista in biodanza acquatica, biodanza e massaggio, biodanza e argilla, biodanza per bambini ed adolescenti. È operatrice shiatsu ed insegnante abilitata a condurre corsi di pensiero positivo e creativo secondo il metodo Louise Hay. Non so come si legga sinceramente. Ha seguito il corso di formazione in rebirthing, sembra fatto apposta per confondermi le idee, respirazione consapevole con Bob Mandel. È istituitrice di firewalking, camminata sul fuoco significa, sistema Sandar. Propone sedute di guarigione con il sistema corpo specchio. E la cosa importante da segnalare è che si impegna da anni nella facilitazione di gruppi di crescita volti allo sviluppo e all'espressione del potenziale umano. Gli incontri si svolgeranno una volta al mese presso il Salone Arci in via Villa Glori 10B, traversa di via Milano a Brescia. Allora, per informazioni ed iscrizioni c'è il cellulare di Mary, che è 333-4567-754, oppure il telefono di Viviana 0261-51-548, oppure, molto più semplice, potete scrivere una email a viviana@biodanza.it o andare a visitare il sito www.alidellavita.it. E poi un'altra iniziativa, Fuori Campo in Forma, grande richiesta, sabato 16 ottobre ricominciamo con le nostre cene mensili. Perché? Perché piacciono e a noi piace stare con le donne che ci piacciono. La nostra ricetta? L'entusiasmo e il divertimento con cui facciamo le cose, oltre che buon cibo, buona musica, un ambiente dove poter parlare, quindi senza urlare, un luogo per conoscersi e rivedersi. Ci sarà musica dal vivo, mostre di arti visive e teatro, sono soltanto alcune delle cose che amiamo unire all'arte della cucina. A Bologna, in un localino piccolo, molto carino, con una saletta per ballare anche dopo cena. La selezione musicale sarà curata durante la serata da due bravissime DJ in trasferta da Bari a Bologna e sono le Lady J. I posti sono limitati e si entra soltanto su prenotazione in modo tale che la serata resti intima e accogliente. Vi aspettiamo tutte. Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete scrivere a cene@fuoricampo.net oppure potete mandare un SMS al 339 14 08 010. E a proposito di SMS, ecco il nostro numero, il nostro del CLR, al quale potete mandare i vostri SMS relativi a questa, oddio, so che è cascato, ho sentito un botto. E, allora, il nostro telefonino è 338-4146-682. E poi raccogliamo l'appello di Delia Vaccarello. L'unità sostiene 1, 2, 3 liberi tutti. È stata sempre difesa dai lettori, ma oggi che il calo delle vendite dell'unità costringe a ritornare alla cadenza quindicenale, Liberi Tutti ha ancora più bisogno di voi, di tutti i lettori. Da quando il direttore dell'unità Furio Colombo decise che valeva la pena di tentare l'avventura di una pagina intera dedicata alla identità gay, lesbica, bisex e trans, da quando Liberi Tutti ha visto la luce il 17 luglio del 2001, un arcipelago di rapporti è nato come d'incanto. le mail di segnalazione delle proprie storie da parte dei giovani e dei meno giovani, di persone che conducono una doppia vita e sono vittima di atavici pregiudizi, di donne e uomini del sud e della vastissima provincia del nord, di tutto coloro che si sentono poveri di diritti e di comunicazioni, sono arrivate a getto continuo. I lettori ci hanno dato fiducia e hanno ritrovato nelle nostre righe il bene della condivisione. Il lettore che non è conforme ai cliché della rappresentabilità si è sentito accolto da una pagina che parla di lui senza false certezze, di lui e di lei, aggiungiamo noi, con l'intento di capire e di far capire che la vita non è fatta di percorsi già trattati, che il bene della comunicazione non è roba che si trova solo sulle pagine dei media, ma che da quelle pagine può essere alimentato e favorito. Perché il bene inestimabile della comunicazione nasce dentro di noi, nel rapporto con le persone che amiamo, così come con quelle che ci sono sconosciute. Comunicare è una forma di humanitas, l'unica che in questo mondo di isole ci può salvare. Con l'intento comunicare siamo entrati dentro i grandi temi. Solo per citarne alcuni, il rapporto tra vecchie e nuove famiglie, la relazione tra omosessualità e fede, il senso della genitorialità, che è una forma per tutti di darsi con generosità, di costruire un futuro migliore, il rapporto tra una politica fatta di principi a priori e una fatta di attenzione alle necessità e ai diritti negati. Grazie alla comunicazione e alla riflessione abbiamo salvato noi stessi giorno dopo giorno, fornendo segnalazioni precise di eventi e appuntamenti, pubblicando le lettere, scavando nei significati profondi delle nostre vite, facendo il giro del mondo per cercare le storie di quelli come noi che tentano di liberarsi dai pregiudizi. La concezione che anima la pagina è infatti radicata in questo principio: non esiste diritto se non è diritto di tutti, altrimenti è un privilegio. Tre libera tutti, che esce il martedì sull'Unità, è l'avverarsi di un sogno. È come se il lettore avesse detto a se stesso: se la carta stampata parla così di me, senza enfasi e senza ostracismi, se rende pubblica la mia vita nascosta, allora io valgo, allora io ho diritti all'esistenza mediatica e non. Allora, 1, 2, 3 libera tutti si è imposta anche all'attenzione dell'editoria ed infatti da lei sono nati 4 libri e altri ne nasceranno. Libri scritti all'insegna della coralità, nel dare voce a chi non ne ha, nel dar valore senza pari che è la libera espressione dell'immaginario per troppo tempo compresso e spesso destinato all'invisibilità. Purtroppo oggi Liberi Tutti non è più settimanale, torna ad essere quindicenale. Quindi abbiamo bisogno di salvare questa rubrica e l'appello di Delia Vaccarello è quello di fare in modo di far capire, comprando più copie il martedì, giorno in cui esce la sua rubrica, che la sua rubrica è letta e vale la pena di essere ancora settimanale. Chiaramente noi raccogliamo questo appello e ci impegneremo in prima persona a comprare il martedì l'Unità per leggere Delia Vaccarello. E tanto per fare una cosa nuova, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, ma ricordiamo a partire dalla settimana prossima e quindi con la replica di questa trasmissione andrà in onda alle 20.30 fino alle 21.30, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Anche se in questo periodo è in fase di riorganizzazione, come le compagne sicuramente vi avranno già spiegato. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. E ci auguriamo che presto tornino a farci compagnia le donne di Caserta, di Bari, di Milano, di Catania, di Bologna e di Brescia, che fino all'ultima puntata, prima delle ferie, ci hanno mandato un loro messaggio. Anzi, a dire la verità, spero che anche da Napoli siano stati finalmente risolti alcuni piccoli problemi per i quali abbiamo ricevuto alcune telefonate da una donna che speriamo diventi una nostra ascoltatrice. Ci ha chiamato per avere ulteriori spiegazioni sul come si possa sentire la nostra trasmissione via internet. Allora, cara giovane Lella di Napoli, se ci sei mandaci un segnale. Vi ricordo il numero degli SMS, che stasera sono proprio assenti, non so, mi avete lasciato da sola, non vale. Il numero comunque è 338-4146-682. Potete anche contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, ricordo solo per oggi, perché a partire dalla settimana prossima fino alle 21.30, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo telefono, che ripeto 06 68 64201, è un telefono fax e segreteria telefonica. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web, che è www.clrbp.it. Ripeto ancora il numero per gli SMS, che è 338-4146-682. Mandatemene uno per dire che ci siete, ma non mi lasciate da sola, già mi hanno lasciato da sola a fare la trasmissione. Per piacere, fatemi sentire che ci siete. E a questo punto vi ripeto anche la nostra email, che è contatti@clrbp.it. Allora, il telefono della radio è 06 49 17 50, il nostro cellulare sul quale inviare i messaggi, ve lo ridico, ne voglio almeno uno, è 338 41 46 682. Allora, fino a tutto il mese di dicembre e a partire dalla prossima settimana, vi ricordo che la nostra trasmissione avrà una modificazione oraria. Inizierà alle ore 20.30 anziché le ore 21. Di conseguenza finirà alle ore 20.30 anziché le 22. Adesso ascoltiamoci un altro brano musicale, si chiama When the Silence Falls. Grazie, sento il bip bip del cellulare, grazie, ringrazio commossa. Allora, il titolo della prossima canzone è When the Silence Falls e la canta Yanis Yan. troppo carino. Gianna mi ha mandato un messaggio con un detto Tuareg che dice: cerca te stessa e quando trovi l'amore, fermati. Troppo carino, grazie Gianna. Madonna, ne è arrivato un altro che dice: ok, sono qui con la mia febbre, raffreddore e cuore spezzato, mi stai tirando su di morale, grazie, un beso, Gio. Mi dispiace che tu abbia il raffreddore, la febbre, e soprattutto che tu abbia il cuore spezzato. Sono contenta di tirarti un po' sul morale, ti abbraccio forte, ciao. Ma è carina, mi è arrivato un altro che dice: spero che le lesbiche a Roma non siano così poche, ciao Giovanna, me lo auguro anch'io, ma ti posso dare conferma che siamo proprio tante, almeno se pensi che alle nostre iniziative vengono sempre numerose e che ogni volta sono diverse, insomma, e che solo trovano qualche difficoltà a scrivere messaggi. Grazie comunque per il tuo, Giovanna. Allora ne è arrivato un altro adesso, non ho fatto in tempo a leggerlo, giuro che la prossima canzone lo leggo. Allora adesso vi leggiamo un pochettino di notizie legate all'iniziativa di Aisha, che hanno in qualche modo a che fare con il tema trattato nel filmato No, e che abbiamo raccolto un pochettino da internet. Allora la prima drammatica notizia è quella della lesbica brutalmente uccisa il 5 ottobre 2004 in Sierra Leone. Allora il governo della Sierra Leone dovrebbe portare alla giustizia i responsabili del brutale omicidio di Fanny Ann Heddy, fondatrice del Sierra Leone Lesbian and Gay Association e attivista lesbica conosciuta in tutta l'Africa. Heddy è stata trovata morta la mattina del 29 settembre mentre lavorava da sola negli uffici dell'associazione la notte precedente. I suoi assalitori sarebbero entrati nell'edificio stuprandola, pugnalandola e spezzandole il collo. Fanny Ann Heddy era una persona di straordinario coraggio e integrità che ha letteralmente dedicato la sua vita ai diritti umani e così ha detto anche il direttore Human Rights Watch che per le questioni gay, lesbian, bisex e trans. Ripetutamente nel suo paese e anche altrove ha attirato l'attenzione sui maltrattamenti, le discriminazioni e la violenza che i gay e le lesbiche subiscono in Sierra Leone. Adesso è stata uccisa negli uffici dell'organizzazione da lei fondata e c'è il sospetto che sia diventata lei stessa vittima dell'odio. Ma chi era questa donna straordinaria? Dunque, Heddy ha fondato l'associazione nel 2002. Il gruppo forniva assistenza sociale e psicologica ad una comunità timorosa e nascosta. Heddy stessa, tuttavia, era una figura visibile e coraggiosa, faceva pressione sui ministri per risolvere i problemi delle violazioni dei diritti umani e quelli sanitari della comunità. In aprile Heddy ha fatto parte di una delegazione di attivisti per i diritti sessuali che Human Rights Watch ed International Gay and Lesbian Human Rights Commission hanno aiutato ad intervenire nella sessione annuale della Commissione sui diritti umani dell'ONU a Ginevra. Heddy ha incontrato la delegazione del suo governo e ha testimoniato presso Commissione sui diritti degli omosessuali in quella che ha definito la mia amata Sierra Leone. Oh, Subiamo costantemente maltrattamenti e violenze dai vicini e dagli altri, ha detto alla commissione. I loro attacchi omofobici rimangono impuniti dalle autorità, incoraggiando ulteriormente il loro trattamento discriminatorio e violento sulle lesbiche, i gay, i bisessuali e i transessuali. Eddie e la sua organizzazione hanno documentato maltrattamenti, linciaggi e arresti arbitrari di omosessuali e transessuali in Sierra Leone. La dichiarazione di Fanny Ann Heddy presso la Commissione ONU sui diritti umani è disponibile sul sito che, se vi interessa, possiamo girarvi, mentre invece per ulteriori informazioni su Fanny Ann Heddy anche il sito www.ilga.org. Tanto perché questa seratia rimanga sul leggero, andiamo a leggere il dossier di Amnesty International che evidenzia come le donne di tutto il mondo siano in realtà delle vittime. L'organizzazione umanitaria Amnesty International ha lanciato a Londra una campagna internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza contro le donne è il peggior scandalo dei nostri tempi in materia di diritti umani. Da quando nascono fino alla loro morte, sia in tempo di pace che di guerra, le donne sono soggette a discriminazioni e violenze di cui sono responsabili gli stati, la società e le famiglie. Così denuncia Amnesty, che formula la seguente condanna. Mettere fine alla violenza contro le donne, questo è il titolo del rapporto con il quale l'organizzazione condanna senza appello le discriminazioni e le violazioni dei diritti dell'uomo di cui sono vittime le donne di tutto il mondo. Per Irene Khan, segretaria generale di Amnesty International, la violenza contro le donne è oltraggiosa e nascosta. Non a caso Aisha ha intitolato la sua iniziativa rendere visibile l'invisibile. Nel mondo, ha sottolineato, 79 paesi, inclusa la Russia, non hanno leggi contro la violenza domestica e 54 hanno leggi che le discriminano in pieno. Nessuno escluso. I numeri comunicati da Amnesty danno le dimensioni del fenomeno. Adesso vi cito qualche stato nel quale queste cose succedono e soprattutto che cosa succede. Allora, negli Stati Uniti d'America, secondo statistiche ufficiali, ogni 15 secondi viene picchiata una donna. Il governo stima che nel 2001 si siano verificati circa 700.000 casi di violenza domestica e che ogni anno vengano vendute da 45 a 50.000 fra bambine e donne. In Canada, a Vancouver, tra il 1993 e il 1997, su 462 casi di denuncia di stupro, solo il 33% ha determinato rinvii a giudizio, solo l'11% sentenze di condanna. Ma vediamo un attimino, un pochettino più vicino a noi, in Europa. 500.000 donne sono vittime della tratta della prostituzione. In Belgio, oltre il 50% delle donne ha subito qualche forma di violenza all'interno della famiglia. In Francia, su 25.000 casi di stupro all'anno, solo 8.000 vengono denunciati alla polizia. In Gran Bretagna, fra il 97 e il 98, si sono verificati oltre 2.000 casi di violenza fisica e sessuale contro collaboratrici domestiche. In Russia, secondo dati governativi, ogni anno 14.000 donne vengono uccise da partner o familiari. Ma andiamo ancora più vicino, in Italia. Secondo il rapporto Istat, nel 1999 sulla sicurezza dei cittadini, sono 714.000 le donne fra i 14 e i 59 anni che hanno subito uno stupro o un tentativo di stupro. L'82,7% delle violenze sessuali non viene denunciato. Su 223 omicidi avvenuti in famiglia, il 63,2% nel 63,2% la vittima è stata una donna e nel 41,8% dei casi l'omicida è il partner. Andiamo un attimo a vedere in Medio Oriente. La Lega delle Donne Irachene denuncia che nel periodo aprile-agosto 2003 oltre 400 donne sono state rapite, stuprate o vendute. In Libano nel 2001 i casi di donne uccise dal marito o da un parente maschio per questioni di onore sono stati in media fra i 2 e i 3 al mese. E poi ho trovato una notizia dell'11 ottobre, quindi di ieri. In Arabia Saudita il ministro degli interni dell'Arabia Saudita, il principe Nayef bin Abdulaziz, ha escluso per le donne saudite la possibilità di voto in occasione delle elezioni amministrative che si terranno da novembre a tappe in tutto il paese. E ha affermato: «Non ritengo che partecipare alle elezioni sia una scelta per le donne», ha commentato il ministro, uno degli uomini più potenti dello Stato saudita. Le elezioni amministrative sono le prime votazioni in programma dopo decenni di governo autoritario in Arabia Saudita, retta da una monarchia assoluta, e per ora la legge in vigore non esclude esplicitamente le donne al voto. Ma lui, ripeto, il principe Nayef bin Abdulaziz ha detto che non riteneva che fosse importante che le donne partecipassero al voto. Allora, adesso un attimo soltanto che metto un CD. Allora ascoltiamo Susanna Baca con il brano Negra Presuntuosa. Adesso leggo i messaggi, poi mando solo musica fino alle 10. Allora, ho letto i messaggi, sono carinissimi. Uno è firmato Noi. Allora, ciao, ti stiamo ascoltando, non sei sola, finalmente non salta la frequenza, ciao, continua così e non farti abbandonare, baci da Roma, grazie. L'altro è sempre Noi, sempre questo qui. Dunque, una curiosità, ma qual è l'argomento della prossima settimana? Intanto ne approfitto per salutare la mia cucciolina, grazie. Dunque, l'argomento della prossima settimana è lo stesso di questa, visto che va la replica di questa trasmissione. Negra presuntuosa, mira che me estoy muriendo, dame vida de tu. E vai, c'è anche un numero nuovo. È la prima volta che vi ascolto, ma purtroppo non sono dell'umore adatto per godervi. Ho sbagliato con il mio amore. Comunque dite a Giovanna che sono qui. Un bacio a tutte e grazie di esserci, Chiara. Va bene, io non so chi sia Giovanna. Grazie per aver mandato il tuo messaggio. Ti abbraccio e spero di essere stata d'aiuto per sollevarti un po' il morale. Sera talvez la speranza di un si è fatta risentire Francesca, oddio, ecco l'SMS, se no chi ti sente, Laura? Ok, grazie. Oggi ho parlato tantissimo, non mi sono resa conto, ma sono già arrivate le 10. Io metto la sigla, ma non ve ne andate, che siamo qui proprio fino all'ultimo minuto secondo, non ve ne andate. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, mi hanno detto che mi è arrivata anche una telefonata, oltre ai messaggini, mi ha telefonato Francesca, io la ringrazio in diretta, purtroppo la linea telefonica sta dall'altra parte, e allora facciamo così, visto che sei stata così carina, ti dedico la prossima canzone, ed è l'ultima della serata, è cantata per Kyle e Sibeda, che sono due cantanti della Scozia e della Nuova Guinea, e il brano si chiama In Exile. Chiaramente il coordinamento lesbiche romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione, vi dà appuntamento anche all'iniziativa che facciamo noi venerdì e le altre che sono un po' sparse per tutta Roma, all'università a Spinaceto, al centro contro la violenza, insomma vi aspettiamo dovunque voi vogliate andare, ma venite a vedere questo documentario che è splendido. Grazie a tutte quante per gli sms che mi avete mandato e vi ricordo che verranno trascritti sul nostro sito, che vi ricordo è www.clrbp.it. Un abbraccio a tutte e alla prossima settimana con la replica di questa trasmissione. Ciao a tutte. Devo fare un'errata corrige, sono stata ripresa. Allora, mi arrivavano sempre una serie di messaggi firmati da Francesca. Adesso mi ha detto che non si chiama Francesca, si chiama Laura. Va bene chiunque tu sia. Un abbraccio, ciao. Ricordatevi che la settimana prossima andiamo in onda alle 8:30, non alle 9, 8:30, puntuali mi raccomando.